Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi della giornata economico-finanziaria. Diamo subito un titolo, adesso l'importante è non far finta di nulla, non pensare che, come scriveva oggi Sole 24 Ore con due editoriali, uno del direttore napoletano e l'altro del vice direttore Alessandro Paterotti, non pensare che tutto possa essere ricondotto o derubricato a una semplice bolla speculativa, che c'è per carità nella borsa cinese, e si possa dire va bene, adesso le borse stanno recuperando, qualche movimento c'è stato, ma in realtà tutto quanto può essere archiviato in questo modo. Sarebbe un errore a nostro avviso totale. Perché? Perché da un lato il tema non è semplicemente la bolla o l'eccesso di crescita dei titoli in Cina, il tema di fondo è intanto che tipo di modello di sviluppo riuscirà a darsi la Cina e le tensioni interne a quel paese proprio su una trasformazione che non tutto il paese sta affrontando, e complessivamente anche i vertici cinesi hanno difficoltà a perseguire, cioè far passare la Cina da un modello di grande manifattura mondiale a un modello anche di consumo, e dall'altro però non mettere la testa sotto la sabbia e capire che un'economia globalizzata, come ripetiamo da anni, con tutti i vantaggi che questo comporta per chi esporta e quindi anche e soprattutto per l'Italia, è un'economia così interrelata, e una crisi di un modello cinese o una difficoltà nello sviluppo cinese, avendo delle ripercussioni immediate su tutto il resto dell'economia globale, può essere risolta solo o principalmente anche attraverso un consesso internazionale, non semplicemente lasciando alle singole banche centrali l'unica operatività e l'unico potere decisionale. Potremmo dire con una battuta che l'economia globalizzata è una cosa troppo importante per essere lasciata solo e semplicemente ai banchieri centrali. Lo dico perché oggi chiaramente i mercati si sono tranquillizzati, sono in parziale ripresa in molti indici, ma lo dico perché oggi l'intervento più importante è stato quello delle banche centrali, a partire dalla banca centrale ovviamente cinese. Questa mattina la banca centrale cinese ha ridotto, il People's Bank of China ha ridotto dello 0,25% i tassi di interesse, e ha ridotto, quindi ha tagliato il costo del denaro, ma ha anche ridotto la riserva obbligatoria per le banche dello 0,5%. Ha immesso in precedenza anche liquidità sui mercati, per cui da questo punto di vista c'è stato un intervento di quasi 24 miliardi di dollari. E ancora ieri sera il presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana, aveva detto: attenzione, noi manterremo il programma di alzare i tassi di interesse entro quest'anno. E il vicepresidente della Banca Centrale Europea, Victor Constancio, ha detto: Francoforte eventualmente è pronta a nuovi interventi, la Banca Centrale Europea, per far fronte a eventuali cambiamenti sulle prospettive dell'inflazione, che significa deflazione dovuta anche al prezzo del petrolio. Dicevo, tutti siamo contenti che vi sia un recupero delle borse, ma la cosa più sbagliata sarebbe appunto far finta di aver registrato e testimoniato una semplice crisi di carattere finanziario. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Questo sarà uno dei temi importanti della puntata, che ricordo torna all'orario estivo oggi e quindi termina alle 18. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo proprio dalle borse. Chiaramente il recupero in questo momento di Milano del 5,48%, a Parigi del 4,40%, a Francoforte del 5 e 14 il Dow Jones del 2,30%, Londra guadagna il 2,50%, l'euro a quota 1,14. Non così bene, per essere eufemistici, era andata invece questa mattina nelle borse asiatiche, perché Tokyo ha chiuso con un altro 4% di calo, meglio Hong Kong più 0,76%, male anche, molto male, Shanghai di nuovo meno 7,6%. Tra i titoli segnaliamo oggi in grosso recupero i bancari: Popolare Emilia Romagna più 8,60, Intesa San Paolo più 7,70, Banco Popolare più 6,80, Unicredit più 6,5. Bene anche alcuni titoli industriali, penso a ST Microelectronics più 6,50, Finmeccanica più 6,20 come Luxottica, Azimut più 6,16, poi Snam più 5,90 come Fiat Chrysler. Devo dire che invece più al palo oggi World Duty Free più 0,20, Pirelli più 0,20, Ansaldo più 0,30, Tod's più 2% e A2A più 3,17%. Dalla Germania invece oggi è arrivata la conferma di una crescita del PIL nel secondo trimestre dello 0,4%. La crescita è stata trainata in Germania soprattutto dalle esportazioni, più 2,2%, a dimostrazione che, poi ne parleremo, anche la Germania, come l'Italia, deve, ma la Germania è quella che ha fatto dell'export il vero, diciamo, punto di forza della sua economia. Beh, occorrerà anche che l'Europa si interroghi sul fatto se può continuare a basare la crescita economica sull'export, se non sia troppo rischioso dipendere così tanto dalle economie emergenti e non sia anche il caso finalmente di pensare a far ripartire i consumi interni dell'Europa, non della Germania, quindi potere acquisto, in modo da diversificare, si direbbe con un gergo da risparmiatori, le tue fonti di crescita, perché se continuiamo a basarci solo sulla Russia, che si è fermata un anno fa dopo le sanzioni, e la Cina, che ha queste grosse difficoltà, più i paesi attorno, beh, siamo esposti a tutte le correnti esterne, mentre diciamo, un'economia sana dovrebbe essere anche e soprattutto basata sui consumi interni, sul mercato interno. Comunque, confermato il dato della Germania, mentre in Italia deludente il dato sul mercato del lavoro, nel senso che continuano ad aumentare i posti fissi, questo è un dato positivo, evidentemente. La decontribuzione che parte da gennaio per tre anni per chi assume a tempo indeterminato e il Jobs Act che è partito a marzo stanno avendo l'effetto di trasformare molti contratti da tempo determinato o contratti di collaborazione in tempo indeterminato. A luglio il saldo fra i posti a tempo indeterminato persi e quelli invece creati è un saldo positivo per 27.000 unità. Le trasformazioni, e questo è il dato meno entusiasmante, di questi 27.375 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, solo 47 sono nuovi lavori. Il resto, cioè la stragrande maggioranza, il 27.328, sono trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Anche qui, per non essere manichei, è positivo che un lavoratore da tempo determinato vada a tempo indeterminato. Certo che con la riforma del mercato del lavoro non crei occupazione, e infatti non si è creato occupazione, visto che i nuovi posti di lavoro sono solo 47. Il dato dei primi sette mesi comunque dell'anno è particolarmente positivo, cioè i contratti trasformati in tempo indeterminato sono stati 630.000, perché ci sono state 1.084.000 attivazioni contro 830.000 cessazioni nei primi sette mesi, e quindi questo è il saldo positivo di quanti contratti da tempo determinato a tempo indeterminato si siano attivati. Tant'è che anche l'INPS faceva notare come i nuovi occupati abbiano lavori sempre più stabili, cioè sono 4 su 10. Ci sono state appunto 952.000 nuove assunzioni, secondo l'INPS. resta una confusione tra i dati dell'INPS, i dati del Ministero del Lavoro, e poi vedremo anche altri dati arrivare, ma quello che è chiaro ed è certo è che appunto ci sono stati un numero impressionante di trasformazioni da tempo determinato a tempo determinato, ma un numero assolutamente esiguo, risibile, di nuovi posti di lavoro. E delle politiche economiche interne oggi ha parlato il Presidente del Consiglio, intervenuto al meeting di Rimini, al meeting di Comunione e Liberazione, ha detto, prima ha parlato a Pesaro, scusatemi, a Federlegno Arredo, da Pesaro il Premier Renzi prima è intervenuto sul tema della tassazione. In Italia la tassazione è esagerata, occorre abbassare le tasse e ritornare, restituire equità sociale, e ha confermato che il prossimo anno verrà tolta la TASI e l'IMU per tutti. Il prossimo anno togliamo TASI e IMU per tutti, nel senso che non è possibile continuare questo giocattolino dove la tassa sulla casa l'abbiamo messa tolta. Qualcuno dice: ah, ma se togli la tassa sulla casa sei come Berlusconi. No, Berlusconi è quello che l'ha anche rimessa la tassa sulla casa, votandola insieme a Monti. Non è questo il punto. Una cosa non è se l'ha fatta Tizio o Caio, è se è giusta o non è giusta. Se partiamo dagli 80 euro, cioè dal persone che guadagnano meno, poi interveniamo sull'IRAP costo del lavoro, poi interveniamo sulla casa, ci possiamo poi concentrare nel 2017 sull'IRES, cioè sulla tassa per le imprese, abbassare ancora una volta per il lavoro, per chi lavora. Le tasse oggi sono più o meno al 31%, la tassazione sulle società, portarle al 24%, più bassa della Spagna, e nel 2018 l'IRPEF. E poi sempre il Premier Renzi, è sempre da Pesaro, appunto nel corso dell'assemblea di Federlegno Arredo, ha detto: ci concentreremo nel 2017 sull'IRES, e cioè sulle tasse alle imprese, portandole al 24% sotto il livello spagnolo, poi per il 2018 potremmo intervenire anche sull'IRPEF. Ancora sempre le parole, vedo un messaggio, sto leggendo alcuni messaggi. Dunque, mi scrive un ascoltatore: adesso affermate che bisogna far ripartire il mercato europeo, ma avete trasmesso dalla Cina. Guardi che la cosa peggiore in questo momento è avere una visione manichea, cioè ideologica. Le due cose stanno assieme, cioè un paese deve, se vuole crescere, puntare sull'export e quindi sui mercati dove si sta creando maggior ricchezza. India, Cina, Turchia, Indonesia, Russia una volta fino alle sanzioni, ma non può pensare di crescere solo con le esportazioni. E questo è stato l'errore, diciamo, di impostazione, di visione della Germania, non tanto dell'Italia, che ha detto: vabbè, nel mercato interno valgono le regole di Maastricht, quindi la prima cosa è l'atteggiamento un po' ragionieristico sui conti pubblici, chi se ne frega se poi si deprime la domanda interna, i consumi, il potere d'acquisto, tanto noi abbiamo comunque come potere di forza le esportazioni. Poi ti esponi moltissimo alle variabili geopolitiche e geoeconomiche, poi scopri che la Cina magari non può continuare a correre con quei numeri per sempre, o rischia di non continuare a correre con quei numeri per sempre. Andiamo avanti però ancora su due interventi del Presidente del Consiglio, poi parliamo proprio del tema Cina e quello che sta capitando, è necessità di sedersi attorno a un tavolo, di non affrontare queste crisi così, un tanto al chilo. Però restando sul Presidente del Consiglio, sempre a Pesaro, ha detto: attenzione, il tetto degli stipendi dei manager a 240.000 euro vale per tutti, ma c'è ancora qualcuno che se ne approfitta. Abbiamo dimezzato i permessi sindacali. Il sindacato è una cosa bella, ma se riduci i permessi non fa male. Abbiamo il maggior numero di sindacalisti e politici in Europa. Se non riduciamo il numero, non è un attacco al sindacato, ma è un modo per dire: fai meglio il tuo lavoro. E poi il bivio su qui di fronte all'Italia: o torna a fare l'Italia e allora c'è spazio per uscire dalla crisi, altrimenti non sarà un'Italia meno ricca, ma sarà una perdita complessiva di ricchezza. L'Italia ha una gigantesca questione educativa e culturale davanti, e questa questione gigantesca di educazione e di cultura vede l'Italia di fronte a un bivio. Se l'Italia torna a fare l'Italia, c'è spazio per l'Italia nel mondo, c'è spazio per l'Italia in Europa, c'è spazio per l'Italia nel Mediterraneo, c'è spazio per l'Italia per uscire dalla crisi nella quale siamo. Se viceversa l'Italia non investe su se stessa e continua in un racconto di negatività, non è l'Italia meno ricca, è il mondo che perde un'occasione. E quindi, da questo punto di vista, la questione reale che ci si pone di fronte è: l'Italia può giocare un ruolo nell'Europa che cambia, a condizione che sia in grado essa stessa di cambiare. Il pacchetto di riforme che stiamo cercando di fare, dal Jobs Act alle riforme istituzionali, dalla legge elettorale alla riorganizzazione della pubblica amministrazione, con tutti i limiti, dalla buona scuola alla responsabilità civile dei magistrati, il tentativo è quello di far sì che l'Italia, dopo 20 anni in cui ha pigiato il tasto pausa, recuperi il tempo che ha perso. Ma noi siamo i primi a sapere che non sarà semplicemente con le riforme che l'Italia ritroverà la propria identità. Le riforme sono la premessa. Ai temi italiani e ai temi globali, Renzi ha detto la globalizzazione è il principale asset per l'Italia, e poi è intervenuto, a mio avviso, collateralmente rispetto al tema Cina, ma è intervenuto sul ruolo dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Attenzione, lo dico io, perché nel momento in cui la Cina inizia a dare problemi, la Russia non è più un mercato per via di un embargo, non è che, cioè, i BRICS, i famosi BRICS su cui basavamo tutte le prospettive e le magnifiche progressive sorti della ripresa economica mondiale, sono fatti da Brasile, Russia, India e Cina. Se tu levi la Russia e la Cina, il Brasile è un paese esportatore e ha già qualche difficoltà, ti resta l'India, che però, con il massimo rispetto, che però di questi quattro paesi era quello che aveva un ruolo meno significativo sulle prospettive complessive. Comunque, Renzi sull'errore di un'Europa che costruisce se stessa contro la Russia. Io non credo a una equidistanza dell'Italia nel mondo internazionale. Credo al ruolo dell'Italia come portatrice di dialogo, partendo dal nostro rapporto straordinario e forte con gli Stati Uniti d'America, ma dimostrandoci capaci di dire ciò che va detto in tutte le sedi, in tutte le salse, riconoscendomi pienamente nel disegno strategico degli Stati Uniti e degli alleati occidentali, dico che pensare di costruire l'Europa contro la Russia, come fa qualche paese dell'Unione Europea appena arrivato nella nostra comunità, è un errore tragico, è un errore tragico. Vorrei che su questo punto fossimo chiari tra di noi. Non è un fatto economico, non sono le sanzioni il problema economico in questo momento in Russia. Il problema in Russia, finché c'è il petrolio a $40, quello è il problema dell'economia russa. È un fatto non semplicemente economico, i nostri interessi, è un fatto culturale, è un fatto chiave. L'Europa non può essere costruita contro il vicino più grande, e le radici culturali che ci legano sono decisamente superiori rispetto a pure le differenze che abbiamo. Allora, è chiaro che l'intervento del Presidente del Consiglio, come dicevamo, è rivolto soprattutto ai rapporti bilaterali, chiamiamoli così, Unione Europea-Russia, con però il convitato di pietra americano. Ma è anche chiaro che si inserisce nella necessità, forse il termine è un po' troppo alto e un po' troppo utopistico, di ripensare un nuovo ordine mondiale. Detto così, appunto, risulta forse astratto, ma a nessuno sfugge che le due delle principali economie che dovrebbero trainare il grosso della crescita economica mondiale, la Russia è in panne è già da un anno, e adesso la Cina, come oggi scriveva appunto il direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, attenzione a pensare che qua si tratti solo di panna montata finanziaria speculativa. Certo che c'è anche la bolla sulla borsa di Shanghai, ma è anche la prima volta che il mondo deve chiedersi come parliamo e come dialoghiamo con la Cina, visto che la Cina da sempre era intoccabile, tra virgolette, perché garantiva la crescita mondiale anche quando i paesi occidentali si sono fermati dopo Lehman Brothers. Qualcuno ha fatto notare in maniera forse artificiosa, che le due principali economie mondiali ex comuniste sono in questo momento i due punti interrogativi più forti sulla ripresa economica complessiva. Ma insomma, da più parti si sente l'esigenza di non risolvere e affrontare questi problemi solo come piccole sanzioni o grandi sanzioni, incontri bilaterali, dichiarazioni, potremmo dire con un linguaggio poco diplomatico e poco della diplomazia internazionale, a spizzichi e bocconi. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il viceministro sviluppo economico Carlo Calenda, buonasera. Buonasera, buonasera. A cui da sempre riconosciamo anche il grosso ruolo e sforzo che dà e aiuto che cerca di dare alle nostre imprese con le missioni internazionali nelle aree di maggiore interesse, ultima, vado a memoria, l'Iran nell'ordine di tempo, però mi corregga se sbaglio. No, in realtà io in Iran ci andrò a settembre, io l'ultima che ho fatto è stata più vicina agli Stati Uniti, in Iran è andato il ministro Guidi. È andato il ministro Guidi, giusto, e quindi però sempre all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, questo assolutamente possiamo dirlo. E dall'altra parte anche il professor Marco Fortis, editorialista del Sole 24 Ore, insegna economia industriale all'Università Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison, nonché grande esperto, come ogni volta ricordo, dei numeri del nostro export. Buonasera professor Fortis. Buonasera. E per dovere di cronaca anche membro da pochissimo del Consiglio di Amministrazione della RAI. Allora, viceministro Calenda, in questo programma non abbiamo mai la tendenza a volare troppo alto o a fare accostamenti pindarici e ragionamenti intellettualoidi, però insomma la necessità di non affrontare, come scrive anche oggi sulle 24 ore, queste tensioni solo a colpi di piccole decisioni, di piccole dichiarazioni. Molti hanno fatto notare che la Cina ci ha accolto impreparati, ha accolto impreparati anche gli organismi internazionali, perché nessuno si era mai posto il problema di come si tratta con la Cina, con altri paesi. Abbiamo visto la Casa Bianca muoversi perfino sulla Grecia e il rapporto Grecia-Germania. Con la Cina tutti avevano la tendenza a non svegliare, non disturbare la Cina, perché ci garantiva di fondo la grande crescita economica mondiale. Ma guardi, io dico questo, la Cina è in una crisi di modello di sviluppo, cioè non è una crisi finanziaria, scusate, episodica. Questo vuol dire che il suo passaggio da economia di produzione a economia di consumo è un passaggio che non sta funzionando bene. Le aziende cinesi continuano a essere largamente partecipate dai governi locali, le banche altre, allo stesso modo c'è una sovrapproduzione strutturale in una decina di settori che colpisce anche noi, perché porta certe volte a concorrenza, a fenomeni di concorrenza scorretta. Più in generale ci stanno venendo al pettine moltissimi nodi del modello di crescita cinese. Allora, questo non è un fatto episodico, questo è un fatto fondamentale, perché la Cina oggi è la seconda potenza globale, la seconda economia. Allora, quando incomincia questo fenomeno noi sappiamo che tradizionalmente porta a una chiusura e quindi a un maggior nazionalismo, e questo diventa un rischio geopolitico, non è solo un rischio economico. Ecco perché, e mi ricollego a quello che diceva oggi anche Renzi sulla Russia, ecco perché oggi il livello di crisi che noi possiamo sopportare è molto inferiore a quella del 2008. Il 2008 era una crisi finanziaria molto grave, qui però tutti quanti remavamo verso una determinata direzione, quella di cercare di uscirne fuori. Oggi è molto differente, in parte perché si sono separate le politiche monetarie, è finito il quantitative easing negli Stati Uniti, le materie prime sono crollate mettendo in difficoltà i paesi emergenti, ma sia come sia, oggi la situazione politica ed economica e finanziaria è molto più stabile. Allora, se si saldano queste due instabilità, se si salda l'instabilità finanziaria ed economica con il nazionalismo, con l'instabilità geopolitica, ecco che noi rivivremo un processo come quello che è avvenuto negli anni 30, e anche se la storia non si ripete mai uguale a se stessa, e oggi l'economia è mondiale è molto interdipendente, però allo stesso modo noi sappiamo che c'è un'equazione che è sempre la stessa, chiusura economica, isolamento economico, nazionalismo, aggressività nazionalista. Questo è quello che è successo con la Russia, no? Poi possiamo discutere su chi è la colpa, come è andata, però è il dato di fatto. Ecco che l'esigenza di affrontare questo tema in una sede appropriata, che oggi non c'è, perché oggi non esiste una sede, perché il G20 è una riunione che si fa di natura informale, non ha una struttura, non è un'istituzione, si incontra una volta ogni anno, si parla dei problemi prevalentemente economici, nasce per questo, e poi alla fine si esce con una dichiarazione che però non risolve i problemi, no? I problemi restano sul tappeto. Ecco, io credo che bisogna trovare un foro dove le tematiche politiche e le tematiche finanziarie ed economiche si vengono rimesse insieme, è un foro che va rafforzato, forse può essere lo stesso G20, ma costruito in modo diverso, con un'organizzazione permanente che consenta prima di tutto di coordinare non solo le politiche economiche e finanziarie, ma anche il modo in cui si interviene nelle crisi geopolitiche. Allora, la prima obiezione che verrebbe naturale, chiaro ragionamento, un'economia e un mondo globalizzato ha dei vantaggi, lo vediamo tutti, ma necessita anche di una gestione globale, mentre così non è avvenuto. Paradossalmente uno potrebbe dire che si sta riproponendo su base mondiale il problema che ha l'Unione Europea, cioè, è un mercato globale ma una gestione, diciamo, politica completamente nazionale. Lo uso come paradosso. La prima obiezione però, Vice Ministro Calenda, potrebbe essere: beh, esiste già un foro del genere, e che foro? Si chiama ONU. Devo dire che molti hanno lamentato l'assenza dell'ONU anche in vicende che riguardano marginalmente quello di cui stiamo parlando, e mi riferisco alle emergenze migranti, vedi il caso adesso Serbia-Ungheria, il caso greco, le coste italiane. Però l'ONU potrebbe essere, o avrebbe dovuto essere, diciamo, la grande camera di compensazione di diverse esigenze per prendere una decisione. Mi sembra che lei stia chiedendo però un meccanismo ancora più operativo. Deve essere più snello e più operativo. Certo, l'ONU e poi le istituzioni di Bretton Woods, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, ma appartengono a un'epoca, hanno preso un'evoluzione per cui le istituzioni finanziarie escludono di fatto, escludono, insomma, non portano dentro la Cina al livello in cui la Cina ci dovrebbe stare dentro. Dall'altro lato le Nazioni Unite hanno un sistema di consenso che rende praticamente non operative, ormai sono appunto, come diceva lei, giustamente sparite. Allora, questo mondo che ha questo livello, questo grado di stabilità politico ed economico, lo possiamo lasciare, come posso dire, ingovernato? Possiamo pensare che l'esercizio di governance che si fa avviene sostanzialmente appunto una volta l'anno in una riunione in cui alla fine si fa una dichiarazione formale di cui tutti sappiamo la forza e l'importanza? Non credo che questo possa essere, credo anzi che questa crisi deve essere l'occasione prima di tutto per non avere la tentazione di dire beh, così blocchiamo l'ascesa della Cina, perché se noi usassimo questa crisi cinese per, come posso dire, usando un'espressione un po' forte, dargli addosso, beh, ecco che ci troveremo davanti a un altro paradigma russo. A un caso russo 2, diciamo. Sì, che non ci possiamo permettere, perché la Cina ha una dimensione diversa, già non ce lo possiamo permettere in Russia, figuriamoci in Cina. Ma tutto questo dove viene discusso, dove viene deciso, in che modo si affronta, in che modo noi la tendiamo questa mano alla Cina, come decidiamo di aiutarla, vogliamo dargli maggiore rappresentanza nelle organizzazioni di Bretton Woods, vogliamo prendere yuan come valuta di riserva, ecco queste decisioni. Quindi secondo lei è stato un errore che il Fondo Monetario non abbia accettato la valuta cinese, lo yuan, come valuta di riserva? Lo spiego a tutti, far entrare, diciamo, la valuta cinese a pieno titolo nelle valute forti occidentali che vengono utilizzate come valuta di riserva? Sì, guardi, io penso che è un errore questo, così come è stato un errore escludere la Cina da una presenza più forte all'interno della Banca Mondiale, che ha determinato il fatto che la Cina si sia sviluppata una sua, diciamo, una sua banca, e così è uguale per il Fondo Monetario Internazionale, per la semplice ragione che con tutti i limiti che la Cina ha, e ne ha tantissimi, il meccanismo di inclusione è il meccanismo che funziona meglio, perché l'alternativa è talmente drammatica che non può essere presa in considerazione. Beh, l'alternativa l'abbiamo vista in questi giorni, che la Cina, non essendo inclusa, abbia una politica monetaria tutta sua e anche una politica finanziaria tutta sua, che nulla a che vedere col mondo occidentale e che crea poi squilibri di carattere finanziario, ma che si ripercuotono anche sul fronte economico. Su questo volevo chiedere al professor Fortis, però insomma, ieri abbiamo visto, oggi per carità lo ricordo, la banca centrale ha tagliato i tassi cinese dello 0,25%, ha dato un massiccio sostegno all'economia, liquidità per 24 quasi miliardi di dollari, ha tagliato il coefficiente di riserva obbligatorio allo 0,5%, dello 0,5%, e va bene. Nel frattempo, ieri sera la Federal Reserve aveva confermato che avrebbe aumentato i tassi entro fine anno, e oggi il vicepresidente della BCE, Victor Constancio, ha detto che Francoforte è pronta comunque a nuovi interventi per far fronte a eventuali cambiamenti sulle prospettive dell'inflazione. Leggi deflazione causata dal rallentamento economico eventuale e calo brusco già reale del prezzo del petrolio. E di questo, insomma, vorrei continuare a parlare anche con Marco Fortis, però devo chiedere un minuto di pazienza, ho il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, professor Marco Fortis, alla luce anche di quanto ricordava il vice ministro Calenda, la necessità di sedersi in un foro e creare non una tantum, ma diciamo un punto di incontro per ragionare sugli nuovi sviluppi e modelli di sviluppo, per non lasciare tutto a livello bilaterale o addirittura al rischio che poi si creino nazionalismi, molti hanno minimizzato in questi giorni, in queste ore, l'impatto sul nostro export del rallentamento della crisi in Cina. Sappiamo che la Cina è uno dei principali acquirenti di Made in Italy per la fascia alta. Ferragamo ricava il 38% dei suoi introiti, Prada il 32%, Tozzi il 26%, Brunello Cucinelli quasi il 10%. Ora, è vero che per ora noi esportiamo solo 10 miliardi di euro, il 2,6% del totale, però insomma non si può, a mio avviso, prendere così alla leggera quello che è in prospettiva il principale mercato di sbocco per il Made in Italy di qualità e quindi alto valore aggiunto. Ma certamente sì, perché i temi che sono stati anche toccati prima dal Vice Ministro sono di rilevanza cruciale. C'è proprio un problema di modello di sviluppo che riguarda non solo il presente ma soprattutto il futuro, no? Quando diciamo che le prospettive della globalizzazione sono una grande opportunità per l'Italia, evidentemente dobbiamo avere interesse che questa globalizzazione continui in modo più ordinato. Probabilmente è il caso di parlare di una sorta di tagliando della globalizzazione che andrebbe fatto, perché finora questa globalizzazione si è sviluppata in maniera molto arrembante e con la fiducia che alcuni paesi che erano partiti sarebbero andati avanti come dei proiettili. In realtà si stanno fermando tutti, perché non è solo un problema di Cina e di Russia, che già si era bloccata con le tensioni sull'Ucraina, ma anche il Brasile, ricordiamolo, che è un grandissimo paese esportatore e che esporterà di meno probabilmente se c'è un rallentamento mondiale importante, è un paese che ha anche visto la propria moneta svalutarsi, che ha tensioni politiche interne, quindi dei famosi BRIC rischiamo di avere diciamo un bel po' di pistoni. Resta solo la I, che è l'India, non è l'Italia. Sono quattro pistoni di cui tre si stanno un po' fermando e l'India tutto sommato è forse quello che ha anche il potenziale al momento meno rilevante di traino sull'economia mondiale. Quindi c'è un problema di sicuramente, io userei anche questa espressione un po' da altri tempi, ma di ricerca di un nuovo ordine che passa attraverso anche un nuovo ruolo delle istituzioni internazionali, perché anche qui per esempio questi paesi hanno avuto accesso ma sono stati un po' sempre trattati quasi come degli ospiti di riguardo, ecco, che davano lustro ai ricevimenti ma che in fondo partecipavano poco alla concertazione complessiva. Sì, se posso aggiungere, forti ospiti di riguardo trattati come dei diversi, nel doppio senso di non includerli veramente come ricordava Calenda, sì. Ma anche non obbligarli, cioè non avere lo stesso tipo di interlocuzione, e dire attenzione, tu sei parte di questo, diciamo, consesso e ti devi comportare i doveri oltre che i diritti. Mentre con la Cina si è sempre detto, vabbè, tanto quella è la Cina, lasciamola stare, non è pienamente un paese occidentale, quindi non entra a pieno titolo nel Fondo Monetario come valuta o nella Banca Mondiale come regolamenti obblighi, però non le chiediamo neanche quello che chiediamo agli altri paesi quando vediamo squilibri finanziari, quindi può continuare per esempio a far acquistare alle sue aziende statali titoli in borsa quando la borsa va male, ad avere patrimoni sulle banche che da noi sarebbero assolutamente inaccettabili, cioè avere tutta un'economia, un misto capitalismo, economia di mercato socialista che è diventato un miscuglio. Le chiedo una cosa però, Fortis, le prospettive che lei vede, visto che citava dal punto di vista anche il Brasile oltre che la Cina. Potrebbero essere modificate da che cosa in positivo? Perché, ripeto, per ora noi non abbiamo un dato fortissimo sull'export verso quei paesi. E che cosa non sta funzionando nel modello di sviluppo cinese? Perché ce lo chiedono molti ascoltatori. Il passaggio da grande manifattura a paese anche di consumo, di consumatori, la famosa creazione di una classe media? Partirei da quest'ultimo punto, perché in fondo le diagnosi nel passato, anche nel lontano passato, erano sempre state abbastanza precise. Farei addirittura un paragone tra questa situazione cinese e il temuto scoppio della bolla immobiliare americana. Per quanto tempo si parlò all'epoca di soft landing o di un landing più disastroso? Tutti temevano che scoppiasse la bolla, ma si è andati avanti per 2-3 anni a discuterne. E in realtà si sperava sempre che non scoppiasse, no? Anche il caso cinese, pur con tutte le differenze, è abbastanza analogo. Sono anni che si discute del fatto che un paese come la Cina non poteva basare per sempre il suo modello di sviluppo solo sull'export, così come la stessa Russia non può basare solo sull'export di idrocarburi il proprio sviluppo, e quindi anche qui si è formato un problema gigantesco adesso con la caduta del prezzo del petrolio. Poi una cosa tira l'altra, perché se si ferma la Cina cade ancora di più il prezzo del petrolio, no? Quindi, come abbiamo visto in questi giorni. E quindi gli stessi BRIC sono tra loro concatenati, perché poi la Cina ha un import di soia e di prodotti alimentari gigantesco dal Brasile, quindi tutti questi paesi, e poi pensiamo anche a quelli più piccoli, ai paesi minerari, che non so, al Perù, a quelli africani che esportano al rame cileno, come viene esattamente detto, certo. Qui c'è tutto un rischio di concatenamento di problemi che possono effettivamente trasformare il problema del modello di sviluppo della Cina più in generale in un problema di modello di sviluppo del mondo, perché quando uno non possiamo pensare che sia solo un problema di modello di sviluppo della Cina, quando poi la Cina è uno dei traini dell'economia mondiale, diventa proprio un problema di modello di sviluppo complessivo del sistema mondiale, no? Perché se tu hai una parte del motore importante che si ferma e che non riesce ad essere aggiustata e a modificare la propria traiettoria in modo positivo, ti ritrovi con un problema mondiale. Ma a questo punto è chiaro che ritorna d'attualità il tema che abbiamo toccato all'inizio, cioè che effettivamente stiamo arrivando a un punto in cui non si può più affidare ancora alle inesperti mani solo cinesi di gestire una crisi economico-finanziaria come quella che stanno gestendo in questi giorni, lasciandoli soli sarebbe un errore, no? Quindi da qui anche l'auspicio che molti hanno fatto che la Cina possa essere aiutata anche a risolvere i propri problemi con una collaborazione, una cooperazione, e nello stesso tempo è chiaro che bisogna anche pensare a avviare un processo di sviluppo di queste economie che hanno galoppato per anni che sia un po' diverso, perché siamo arrivati a fine corsa. Ecco, su questo ho un'ultima domanda sia per lei che per il vice ministro Calenda dopo il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, prima di arrivare all'aggiornamento di borsa, vice ministro Calenda e poi anche chiaramente il professor Marco Fortis. Ma insomma, trago spunto anche da alcuni messaggi degli ascoltatori. Ma un'Europa che non è riuscita a gestire se non a fatica la crisi greca e che non riesce ad avere una politica comune sui migranti, che ruolo può avere in questo G20, insomma, nella necessità di sedersi attorno a un tavolo e stabilire nuove linee guida e accordi comuni a cui lei faceva riferimento, vice ministro Calenda? Perché a guardare, insomma, gli ultimi eventi di questi mesi, un po' di sconforto ci viene. Il punto è che non si può ragionare in base allo sconforto, bisogna cercare di trovare soluzioni che superino lo sconforto. Allora io non credo che questo sia un compito che si deve assumere o possa assumere l'Europa come Europa per se stessa. Penso però che c'è interesse nei grandi paesi europei, penso prima di tutto alla Germania, che è spostissima verso la Cina, a fare questo ragionamento e a partecipare a costruire un sistema di governance che sia più efficace. Del resto alternative non ne vedo, nel senso che alla lista dei paesi che abbiamo fatto in difficoltà oggi ne potremmo aggiungere degli altri. La situazione della Turchia è molto pericolosa, la situazione dell'Egitto non ne parliamo proprio, noi siamo tra i primi investitori e partner. Allora che vogliamo fare? affrontare, proprio perché siamo così deboli come Europa, affrontare da soli ogni singolo pezzo di questa crisi. Non sta succedendo e non succederà. Più siamo all'interno di un contenitore che mette insieme gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'Europa, certo, ma anche grandi paesi come il Brasile e l'India, cosa che è così funziona nel G20. E più, come posso dire, noi abbiamo la possibilità di far leva sulle nostre debolezze e farle diventare un po' più forti, perché altrimenti se le cerchiamo di affrontare da sola, e molte di queste crisi purtroppo noi siamo in mezzo a quelle che venivano chiamate una volta aree di faglia, quindi a un sacco di conflitti, e se noi rimaniamo da soli lì, qual è la soluzione? Vedi il caso libico. Ecco, quindi vedi il caso libico, vedi il caso anche dell'immigrazione che proviene dalla crisi siriana. Allora, tutto questo non può essere tralasciato, perché oggi i fattori di crisi che sono economici stanno diventando politici, perché come si diceva prima, ed è corretto tutto quello che diceva prima Fortis, la verità è che in Cina c'è un problema oggi di governance politica. Questa crisi nasce dal fatto che non riescono a governarla e che spesso i poteri locali si oppongono al disegno di transizione da economia di produzione a economia di consumo, per esempio del potere centrale. Allora questa cosa qua è rischiosissima, noi non l'abbiamo mai vissuta così rischiosa, perché nel 2008, ripeto, remavamo più o meno tutti per uscire dalla crisi, con ricette diverse. Oggi non è così. Oggi pezzi importantissimi del nostro mondo possono voltare verso nazionalismi economici, nel migliore dei casi, politici nel peggiore dei casi. E questo non può essere consentito. Quindi uno strumento va rimesso insieme e la prima cosa da fare è sedere gli attori intorno a un tavolo. Perché se continuiamo ad andare un pezzo per volta non arriviamo da nessuna parte. E potremmo dire con una battuta che questo tipo di crisi è troppo importante, di crisi e rischi che ha di carattere economico, per essere lasciata ai banchieri centrali, perché no, è chiaro... Scusi se ne interrompo, diceva una cosa Vasciago, mi pare l'altro ieri sul giornale, che era precisissima. I banchieri centrali spengono gli incendi, non risolvono i problemi. I problemi vengono risolti dalla politica, cioè dovrebbero essere risolti. Dovrebbero essere, vengono anche causati delle volte, oltre che risolti. Molto spesso, purtroppo. Fortis, dall'immagine che ne esce, noi abbiamo parlato moltissime volte con lei del nostro export nel dettaglio, dei prodotti, il medagliere che lei ha individuato dei 100 prodotti italiani che si posizionano o medaglia d'oro o medaglia di argento o di bronzo a livello mondiale. Ma l'immagine che esce da questo vostro ragionamento e anche descrizione è di un'economia talmente interrelata che, al di là di alcune aree specifiche, non è tanto il battito di farfalle che poi scatena una tempesta. Qui è una tempesta che si sposta e prende tutti i mercati, perché se lei cita Brasile, Cina, Russia e anche la Turchia, beh, non è che resti molto al nostro export fuori dall'Europa se non iniziamo a rimettere un po' di ordine. Sì, noi stiamo beneficiando in questo momento di una, diciamo, di una grossa ciambella di salvataggio, che è la forte crescita dell'export verso gli Stati Uniti, facilitata soprattutto nella prima parte dell'anno da un cambio favorevole euro-dollaro. Certo. No? Quindi abbiamo attutito in parte questo progressivo spegnimento di questo quadrimotore, dove siamo rimasti quasi con un motore solo, no? Che è quello indiano, perché bisogna fare molta attenzione, secondo me. Momento per l'Italia, no, adesso sembra quasi fare una puntata del 2 di novembre, ma non è che i rapporti tra Italia e India siamo dei migliori in questo momento. Può essere un motore per altri, ma per ora, finora, anche per la nostra economia è molto più limitato, cioè molto più importante la Turchia. No, mi riferivo anche ai Marocchi, insomma, chiaramente in più mettiamo anche questi aspetti, certo. Però il problema vero, io credo, sia da una parte quello, cioè il ruolo, si parlava prima del ruolo che può giocare l'Europa, sono d'accordo con il Vice Ministro, e soprattutto alcuni paesi importanti come la Germania, che hanno un ruolo guida in Europa, che oggi devono prendersi la responsabilità non solo di spingere verso la ricerca di soluzioni di cooperazione per evitare che la Cina gestisca da sola questa crisi in cui è entrata. Che, come diceva Calenda, è uno scontro, questo non è un programma di politica, ma in realtà è la manifestazione plastica di uno scontro di potere enorme tra il vecchio modello che ancora vive nelle periferie in alcune aree e il nuovo modello imposto dal nuovo premier, che vorrebbe portare la Cina a diventare anche un mercato di consumatori. Certo, nello stesso tempo però secondo me la Germania deve anche darsi un'ulteriore svegliata dopo anche la crisi greca di fronte a questa crisi cinese, perché i tedeschi hanno pensato per troppo tempo ad un'Europa, o perlomeno una Germania egemonica, egemone in Europa che basasse solo sull'export la crescita. Qui abbiamo un paradosso che l'Europa, diciamo in qualche misura da questa crisi, da questa negatività della crisi cinese, può anche ricavare una lezione, cioè che bisogna rilanciare il mercato interno. Perché le esportazioni sono in economia la classica ciliegia sulla torta: chi ha più ciliegia ha la torta più guarnita, quindi la Germania e l'Italia giustamente, che punta molto sull'export e sulla globalizzazione, che speriamo possa rilanciarsi positivamente, fanno bene a spingere sull'export, ma la maggior parte della crescita del PIL avviene sempre solo per lo sviluppo della domanda interna. E su questo lei, professor Fortis, sfonda veramente una porta aperta, perché da sempre ricordiamo i rischi di un'Europa, a partire dalla Germania e dall'Italia, che si basi solo troppo sull'export. Grazie a lei, grazie anche al viceministro Carlo Calenda. Sì, questo è il sogno che abbiamo, ma attenzione, non è un sogno così utopistico. Se tu non regoli le dinamiche di crescita economica e di sviluppo, viene da essere regolato, cioè finisci nel caos, come abbiamo visto in questi giorni, ed è tutto da vedere che sia terminata, anzi. Vabbè, la borsa più 5,86%, commento oggi è piatto come quello di ieri, cioè è un rimbalzo, ieri come ieri era tutto in calo. Parigi più 4,14%, Francoforte più 5%, Londra più 3%, il Dow Jones in questo momento sta guadagnando il 2,23%. L'euro su dollaro a 1,14, tra i titoli in chiusura si confermano molto bene alcuni bancari: Popolare Emilia Romagna più 9,46, Intesa San Paolo più 8,20, Banco Popolare più 7,20, Unicredit più 6,90, Pop Milano più 6,60%. Bene anche Steamark Electronics più 7,30 e Luxottica più 6,56%. Più al palo World Duty Free più 0,10, Pirelli più 0,34, Ansaldo più 0,50%, Tod's più 2,40, Tenaris più 3,41. In assoluto i migliori del clima più 81%, Digital Brothers più 22%, i peggiori oggi Kaleido Group meno 4,40%. Tra i bancari, per non far torto a nessuno, citiamo anche un titolo come Monte dei Paschi più 5,40, mentre si è mossa bene, ha recuperato oggi parzialmente Fiat più 6,50% e anche Autogrill più 6,30%, sopra il 6% anche Mediolanum e Snam. Ed è tutto per questa puntata in versione palinsesto estivo di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata.